Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, cari amici, egregi signori e signore, autorità, tutti quelli che si interessano di nostro seminario. Zunächst möchte ich sehr herzlich alle Anwesenden begrüßen und vor allem le autorità trentine che sono qui, anzitutto il nostro vero fondatore, il rappresentante della nostra madre, il senatore Kessler, della nostra madre, cioè dell'Istituto Trentino di Cultura, da cui dipendiamo e da cui abbiamo il massimo sostegno e aiuto. Inoltre il mio saluto con riverenza va alle autorità, al commissario governativo, all'assessore per la cultura della città di Trento, al nostro dottor Andreoli, e spero che non ho dimenticato nessuno delle autorità. Citerò io perché hai dimenticato. Ho dimenticato. Va bene, benissimo. Poi inoltre devo leggere non tutti i telegrammi, ma telegrammi di adesione che si sono scusati, cioè il presidente della regione, adesso spero di non sbagliare, il dottor Angeli, e il presidente della provincia autonoma Mengoni. Giusto? Perfetto. Und dann eine besondere Freude ist es mir auch noch, nicht nur weil auch mein Schüler war, hier zu begrüßen den Archivar von Bozen, Herrn Dr. Nössing, der uns die Grüße des Assessore Dr. Zelger überbracht hat, also des Kulturassessors der autonomen Provinz Bozen, und der hier also die Nachbarfakultät oder die Nachbarprovinz vertritt und der selbst auch als Schüler am Institut für österreichische Geschichtsforschung selbst Medievist ist und sich besonders auch für unsere Thematik interessiert. Der Rektor der Universität, il Rettore dell'Università di Trento, è malato e non può partecipare e far gli auguri a questo. Spero di non aver dimenticato nessuno. Ein paar Worte über unser Seminar. Diesmal ist es heuer das 12. Jahr, dass wir die September-Seminare machen. Wir haben 1973 ist dieses Institut gegründet worden, eröffnet durch auch eine Rede von Präsident Kessler, der damals Präsident della regione, è stato, della provincia, allora è stato, ma lei è stato una volta della provincia e una volta della regione. 1974 haben wir dann schon die ersten Seminare gehalten, und zwar immer zwei Seminare, ein mittelalterliches und ein neuzeitliches Seminar. Heuer zum ersten Mal machen wir nur ein Seminar, und das müssen wir vielleicht kurz erklären. Im vergangenen Jahr haben wir ein sehr zeitgeschichtliches Thema gemacht über Faschismus und Nationalsozialismus einerseits und ein spätmittelalterlich früh neuzeitliches Seminar über die Repubblica Internazionale del Danaro. Und dann haben wir beschlossen, heuer wo ja der internationale Historikerkongress war, nur ein Seminar zu machen. Und es war die Idee von unserem Kollegen Sciera, hier das Ottocento, die Stellung des Ottocento, also im 19. Jahrhundert die Einstellung zur Vergangenheit. Und es war besonders unser Freund Raul Manzelli, Mitglied unseres Comitato Scientifico, Professor Raul Manzelli, ein führender italienischer Medievist, der immer darauf gedrungen hat, dass das Mittelalter nicht vernachlässigt wird, dass also nicht nur, dass die allgemeine Tendenz zur Neuzeit nicht zu sehr überwiegt, und er ist es dann vor allem auch gewesen, der dieses Programm entwickelt hat. Es war dann ein großer Verlust, als wir ganz plötzlich und unerwartet erfahren haben, dass er von uns gegangen ist. Posso forse adesso continuare in italiano a parlare del nostro amico Raul Manzelli, professor Raul Manzelli, al quale è dedicato, alla cui memoria è dedicato questo seminario. Professor Raul Manzelli, che fin dal principio è stato uno dei più attivi membri del nostro comitato scientifico. Se io guardo qui, adesso la signora Karin mi ha dato un elenco di tutto quello che lui ha fatto per noi, già il primo seminario nel 74 su Federico di Svevia, problemi di politica e di cultura, era lui insieme con l'amico Schmidinger, che adesso con noi, uno dei coordinatori, poi dopo anche l'anno dopo, nel 75, era di nuovo un coordinatore nel 78 e anche nel 80 insieme con Riedmann nel seminario su Federico Barbarossa. Lui ha fatto delle conferenze, perché è da noi l'uso che ogni volta, due volte all'anno, che si raduna il comitato scientifico, uno di noi, dei membri del comitato scientifico, fa una conferenza pubblica, appunto per avere il contatto anche con la cittadinanza di Trento e con la cultura della cittadinanza di Trento. Anche lì lui ha fatto delle conferenze ed è insomma stato uno dei più attivi e impegnati soci del nostro comitato scientifico, e io vi prego forse di alzarvi un momento in ricordo al nostro amico Manzelli e pensare quanto dobbiamo a lui, alla sua vivace partecipazione, all'amicizia con cui lui era legato a Trento, a noi tutti. È stata la seconda grande perdita che abbiamo avuto, la prima è stata nell'80, la perdita del nostro primo presidente Hubert Piedin, e adesso nell'autunno dell'anno scorso, proprio quando lui si accingeva a preparare il nostro seminario, lui ci ha dovuto lasciare. Ringrazio per la vostra partecipazione a questo seminario, che è dedicato alla sua memoria. Adesso non mi resta altro che augurare buon lavoro, che augurare, anzi, questa è una cosa che mi sta molto a cuore, che non siano due seminari ma uno, cioè che non succeda, come succede delle volte, che quando un relatore è tedesco, che dopo nella discussione entrano solo i tedeschi, o se il relatore è italiano, che soltanto gli italiani domandino, ma che si faccia proprio degli incroci, che a questo serve anche, questa è una cosa che succede ogni volta che dopo due o tre giorni anche a tavola c'è la collaborazione, che non tutti quelli che parlano tedesco stiano a un tavolo e gli altri a un tavolo. La mattina succede, nel primo momento è logico che si incontrano gli amici. Ich hoffe, ich habe das alles das, was ich gesagt habe, mit meinem etwas stotternden Italienisch, dass das auch den deutschen Zuhörern verständlich ist, dass ich also das nicht wiederholen muss. Und es bleibt mir jetzt nur mehr, den Herrn Präsident Kessler zu bitten, ein paar Worte zu uns zu sprechen. Ringrazio innanzitutto il nostro Presidente, lo ringrazio a nome dell'Istituto anche per tutto quello che fa e anche per questa introduzione. A me spetta, come Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Trentino di Cultura, rivolgere a voi il saluto e il ringraziamento per essere presenti e aver partecipato a questa nostra conferenza. Ich möchte auch gern Ihnen auf Deutsch reden, aber es ist für mich leider nicht so leicht. Wir den Präsidenten Bandelska. Und also, ich sage nur Ihnen, sprachigen Anwesende, den Herzen Grüß von dem Instituto Trentino di Cultura und den Wunsch für Ihnen Arbeit. Dann auf Deutsch rede ich mehr und nicht gut. Così ringrazio tutti quelli che sono intervenuti e ho piacere di ringraziare anch'io, dopo che l'ha fatto il Presidente Vandruska, anche, diciamo così, le autorità, ma non è un bel termine, no? Ma la presenza sia del Commissario del Governo che dei due assessori alla cultura della provincia di Trento, del Comune di Trento, e poi, questo che sottolineo particolarmente con favore, c'è il rappresentante, come ha detto lei, dell'assessore Zelger, assessore della provincia alla cultura della provincia di Bolzano, ma c'è anche, non ha, si è scusato di non poter intervenire, l'assessora alla cultura della provincia di Bolzano per, di lingua italiana, Ferretti, e c'è qui il dottor Fantozzi a rappresentarlo. Quindi questa volta, ecco, veramente mi pare di dover sottolineare questa circostanza. Interpreto questo come un apprezzamento anche per la validità del lavoro che fa l'Istituto Storico ed anche come un incoraggiamento a proseguire. Anch'io, a nome dell'Istituto Trentino di Cultura, in modo particolare voglio ricordare Manselli, che purtroppo questa volta non c'è, per quello che per l'Istituto ha fatto dal suo inizio, perché è sempre stato con noi, è stato uno di quelli che si è impegnato insieme agli altri del Comitato Scientifico, perché poi l'Istituto Storico, se esiste e funziona, non è tanto per merito nostro, è per merito soprattutto di coloro che dentro vi hanno lavorato. Appunto dal professor Ghiavini, che è stato ricordato, da tutti i membri del comitato scientifico e in modo particolare, devo dire, del professor Prodi e anche di Chiera, che poi in questa occasione mi pare che è stato uno degli organizzatori della settimana di quest'anno. Noi, anche come Istituto Trentino di Cultura, che siamo un ente pubblico, emanazione sostanziale della provincia autonoma di Trento ed anche di altri enti pubblici e privati locali, noi, dicevo prima, siamo un po' coloro che procurano l'assistenza, che procurano le condizioni e tutte le necessità all'interno delle quali voi, il Comitato Scientifico prima, tutti gli studiosi poi, possono sviluppare questa attività di ricerca che noi riteniamo molto importante. Importante nel quadro generale ed importante anche qui in questa nostra piccola provincia, in questa nostra piccola regione, e proprio questi approfondimenti sugli aspetti storici che legano queste due nazioni pare che anche qui a Trento abbia sostanzialmente una giustificazione per essere fatta e soprattutto abbia per noi motivo anche di arricchimento culturale e di approfondimento che sono necessari per capire per capire anche quello che siamo oggi e per capire quello che facciamo e soprattutto capire quello possibilmente che dobbiamo fare in avvenire. Ecco, io non aggiungo altro se non ripeto l'augurio vivo che il vostro lavoro abbia successo. Purtroppo il tempo questa mattina non è così favorevole come è stato nei miei discorsi e quindi, perché anche a Trento il mese di settembre era stato certo un pochino anche per quello, ma mi pare che le previsioni meteorologiche dicono che si mettono, che dovrebbe rimettersi presto al bello e spero che anche questo collabori con voi, diciamo, a rendere il vostro lavoro meno pesante e più fruttuoso. Ecco, con questi auguri da parte dell'Istituto Trentino di Cultura, io lascio tutti, e purtroppo non posso assistere, professore, che c'è un altro impegno all'interno dei nostri istituti dell'Istituto Trentino di Cultura, perché abbiamo anche un istituto per le scienze religiose. La settimana scorsa in effetti abbiamo avuto qui il congresso nazionale dei teologi italiani, quindi eravamo occupati con quelli, e questa mattina poi mi devo occupare nell'istituto per la ricerca scientifica e tecnologica. Comunque grazie a tutti e auguri di buon lavoro. Devo aiutarmi, purtroppo mi spiace la dottor professore, mi sono scusato perché avrei avuto piacere, ma non ho donato di farlo. Adesso parli prima tu. Chiedo scusa veramente, ma adesso parlo tu. Ecco. Io sono appunto Pierangelo Schiera, per chi non lo conosce, sono professore all'Università di Trento di Storia delle Dottrine Politiche. Sono membro di questo istituto da qualche anno e di lavoro anche con Vita Quotidiana. E questo è il motivo per cui adesso do io queste informazioni tecniche sulla organizzazione dei nostri lavori invece del professor Elze, che parlerà invece dopo di me prima di iniziare i nostri lavori. La cosa prima da ricordare è che questo è un seminario di studio, è un seminario e non un convegno, questo è chiaro, perché la tradizione di attività dell'Istituto Storico Germanico vuole che in questa sala, che è anche così piccola, si venga per discorrere, per discutere, per confrontarsi e non per proporre verità o dogmi o certezze che tutti noi hanno. Quindi bisogna parlare, bisogna veramente concorrere, confrontarsi. Il presupposto è che ciascuno conosca la lingua dell'altro, almeno al punto da poter capire che cosa l'altro dice. Quindi la mia speranza è che sia possibile ridurre molto le traduzioni. Ecco. Non abbiamo previsto delle traduzioni né in simultanea né in modo regolare da una lingua all'altra. È però previsto che si possa tradurre ciò che non si comprende. È ovvio che questo implica una avvertenza molto modesta, ma che voglio ricordare soprattutto a me stesso, cioè di parlare lentamente, in modo chiaro, affinché i nostri amici e colleghi di altra lingua possano capire. Quest'anno ci sono delle difficoltà, come ha detto il nostro presidente, professor Vanduska, quest'anno noi abbiamo organizzato un solo seminario, una sola settimana di studi invece delle due consuete, però abbiamo tentato un progetto più ambizioso del solito, allargando il gruppo delle persone che partecipano alla settimana. Quindi ci sono più persone del solito, questa sala è zeppa, anzi è troppo piccola forse questa mattina. Devo anche dire che questo sarà forse l'ultimo seminario che sarà tenuto in questa sala, perché l'Istituto Storico Germanico sta per avere una nuova sede in città, meno gradevole forse di questa dal punto di vista ambientale, ma certo più funzionale, e allora in quella nuova sede potremo anche forse stare più largo. Qui siamo in molti e siamo in un posto piccolo, il tempo è brutto, quindi non avremo forse molte occasioni per uscire, speriamo che il sole, insomma. Bisogna insomma collaborare tutti molto affinché il lavoro possa procedere. Anche il tema quest'anno è più faticoso del solito. Il tema che abbiamo scelto non è un tema monolitico, non è un tema unitario e non è neanche un tema da specialisti in senso stretto. Questo implica, comporta che molti di noi appartengono e hanno delle formazioni di tipo diverso. E allora anche i linguaggi che ciascuno di noi opera saranno forse più diversi del solito. Quindi dovremo prestare più attenzione a capirci, a farci capire e a capire. Scusate queste cose, ma io personalmente sono convinto dell'importanza che il linguaggio ha quando si fa scienza, quindi credo che sia importante avere questa attenzione fin dall'inizio, usare con giustezza e con cautela proprio anche i termini che si impiegano, così da facilitare l'incontro tra mentalità e esperienze diverse. I borsisti in modo particolare sono quelli che devono insomma aiutare, no? Devono stare buoni, però devono parlare, devono partecipare più che possono, non devono appunto frazionarsi in naziones, no? Ottocentescamente, ma devono invece confluire in una comunità così del futuro. Quindi i borsisti proprio devono fare più di tutti questo loro dovere e devono, io ho visto, noi abbiamo avuto quest'anno una grande fortuna, un alto numero di richieste, molte richieste per ottenere queste borsisti. C'è stata quindi una selezione severa perché abbiamo dimezzato insomma, il numero dei posti, era la metà del numero dei richiedenti. E abbiamo veramente verificato la qualità di quasi tutti e di tutti questi giovani che sono venuti. E io mi aspetto, noi ci aspettiamo da loro veramente dei contributi attivi e in prima persona. Ci sono senz'altro persone che vengono fra i borsisti che sono più specialisti su certi settori di molti dei relatori, io lo dico in molta chiarezza, bisogna che questo risulti dalla discussione, che la discussione sia forte, viva e più profonda. Ecco. Quest'anno c'è anche una ulteriore novità perché tra lo strato dei borsisti e lo strato dei relatori abbiamo immesso, abbiamo voluto aumentare il numero dei professori ospiti, cioè di esperti, di colleghi, amici, esperti in certi settori che a noi sembrava fosse utile avere a integrazione delle nostre specialità, delle nostre conoscenze per allargare la discussione, aumentarne il tono. Anche Cortorio, naturalmente vi ringrazio in modo particolare perché vengono qui impiegando il loro tempo per partecipare ai nostri lavori, naturalmente. Noi speriamo di avere anche da loro l'aiuto che ci siamo un po' proposti. Già detto che il tema è di tipo ampio e interdisciplinare esime forse dal compiere una introduzione di tipo scientifico. Tra l'altro la grande sorpresa è stata poter leggere nella relazione del professor Tabacco la introduzione ideale, più completa a questa settimana, perché io veramente credo, voi l'avete già letta, e comunque adesso sentendola potremo proprio verificare quanto largo sia lo spettro di questa tematica che abbiamo messo sul tappeto. Proprio poco fa con il professor Tabacco di sopra, visitando le due sale affrescate della villa, si diceva, è stupefacente come all'inizio dell'Ottocento, alla fine del Settecento, un nobile astro, non vorrei che ci fosse le discendenze, un nobile comunque non di grandissima schiatta e comunque trentino, sentisse il bisogno di circondare la sua vita, di abbellire la sua vita con esempi storici o mitologici in maniera così vistosa, così organizzata e così programmata, secondo un piano che nessuno forse ha ancora studiato, ed è forse un limite del nostro istituto che avrebbe potuto fare una piccola, piccolo seminario. Se voi visiterete nei prossimi giorni, questo cosa significa? Diceva, oggi non c'è, chi oggi si costruisce una casa e si circonda di esempi storici? Ecco, io credo che l'Ottocento in questo senso sia davvero il secolo della storia, ma non solo perché è il secolo in cui la scienza storica è stata, diciamo così, se non fondata, ha ricevuto la sua legittimazione più piena dal punto di vista epistemologico o che so io, ma proprio dal punto di vista invece della vita quotidiana, almeno di certi ceti che erano i ceti che comunque facevano a loro volta la storia della società. Quindi questo è un po', insomma, il mistero che a me piacerebbe che fosse chiarito nel corso di queste giornate. Cercare i materiali che stanno sotto queste costruzioni ottocentesche a cui noi facciamo continuamente riferimento anche nella nostra vita di oggi, di uomini del XXI secolo. Solo che noi naturalmente pensiamo nella nostra vita quotidiana, usiamo categorie che vengono dalle grandi scienze ottocentesche, dal diritto, dall'economia, dalla politica, dalla sociologia. In realtà sotto questi edifici scientifici ottocenteschi sta un enorme lavorio, un'enorme passione che ha il suo fondamento, a me pare, anche e soprattutto nella dimensione storica. Scavare lì dentro e usare il Medioevo come cartina di tornasole per misurare questa importanza, il rilievo che la ricerca e l'interesse storico hanno avuto nell'Ottocento per la formazione della mentalità e della coscienza, appunto moderna, che non era secondo me nazionale ma era europea. Questo è un po' l'obiettivo che ci siamo proposti. È un obiettivo che non si esaurisce certo con questo seminario, che è monco, perché mancano moltissimi settori che non si sono potuti affrontare per mancanza di tempo e di energie, e poi ancora è monco perché naturalmente non ci si potrà limitare al Medioevo in questa indagine di scoperta, di archeologia della nostra coscienza, insomma, di europei e di uomini di oggi. Ma per esempio noi abbiamo già preventivato che il seminario, uno dei seminari dell'anno prossimo, settembre, sarà dedicato alla antichità nell'Ottocento, gli studi classici nell'Ottocento. Abbiamo già, ho il piacere grandissimo, un po' anche l'emozione, devo dire, di dire che il professor Arnaldo Momigliani ha già assicurato di essere, che sarà, un coordinatore, il coordinatore per parte italiana. Quindi questo è un ulteriore impegno che ci grava, insomma, sui nostri lavori di questa settimana, perché questi lavori non finiranno qui. Ecco, sono pensati per continuare l'anno prossimo nella versione classica invece che medievale, però insomma, in una stessa linea. Io ho finito, spero appunto che tutti possiamo, che tutto funzioni per il meglio. Credo che dal punto di vista dell'organizzazione non ci sia poco da dire, perché l'ottima nostra organizzazione dell'istituto, che è piccolissima ma funziona abbastanza bene, che fa capo essenzialmente alla signora Krieg, a Karin Krieg, che ringrazio poi in maniera fin d'ora, perché continueremo a ringraziarla per tutta la settimana, ma non importa, ha fatto, ecco, è già stato praticamente tutto detto in questo piccolo fascicoletto che abbiamo preparato per quel che riguarda, insomma, le cose tecniche, no? Adesso noi dobbiamo fare invece una cosa che è molto importante, che però probabilmente faremo nel corso della mattinata, con calma, cioè una presentazione reciproca di tutti gli intervenuti, dei borsisti, dei professori ospiti, dei relatori, in modo che si possa cominciare, no, a conoscerci e così via. E questo lo faremo più tardi, perché dobbiamo ancora vedere, non so se conviene farla prima o dopo la redazione del professor Lazzo. Vedremo poi il professor Lazzo dirà. Ecco. Invece c'è un piccolo solo mutamento di programma. Ecco, molto, molto, per fortuna siamo riusciti ed è dovuto a una indisposizione improvvisa del mio caro amico professor Aldo Mazzacane, che doveva parlare mercoledì mattina sulla storiografia giuridica italiana e sui modelli tedeschi. E lui è caduto ammalato e mi ha pregato di scusarlo presso tutti gli intervenuti e di non può essere. E allora la cosa è naturalmente sfortunata, però ci consente di alleggerire un po' i lavori che erano molto densi, e in modo particolare si alleggeriranno i lavori di oggi, la giornata forse più densa di tutte anche a causa di queste necessarie introduzioni. Il professor Biondi, che parlava oggi pomeriggio su il Medioevo e Cesare Balbo, parlerà invece mercoledì mattina al posto di Mazzacane. E quindi mercoledì mattina noi avremo Biondi, la dottoressa Moscati, e si inserirà con ogni probabilità una altra comunicazione della dottoressa De Pascale sul romanticismo politico tedesco. Quindi la mattinata di mercoledì subisce una modifica anche di tipo sostanziale, perché invece di essere dedicata al diritto in quanto tale sarà dedicata ad aspetti della cultura politica e giuridica italiana e tedesca del periodo. Ecco, tutto questo per quel che riguarda il programma. Io adesso credo che il professor Elze dirà le sue parole a sua volta di introduzione, poi potremo fare una breve pausa per consentire a chi vuole un po' fermarsi così di andarsene in tranquillità, e poi cominceremo, appunto, vedremo in che modo. Grazie. Ich möchte etwas zum Übersetzen sagen. Das italienische Wort für den Dolmetscher heißt Interprete. Übersetzen ist interpretieren. Wenn ich das, was Herr Skira eben gesagt habe, auf Deutsch wiederhole, dann kriegen Sie meine Version davon, aber nicht genau das, was Skira gesagt hat. Denn in Bocca Elziana le parole schiariane sono differenti. Wichtig ist, wir haben keinen Kongress, kein Kolloquium, die sich dadurch auszeichnen, dass ein gelehrter Mann vorträgt und die anderen alle schweigen und dass dann in der Diskussion nur die ganz großen Leute wagen, ein Wort zu sagen, sondern wir machen ein Seminar. Das besteht darin, dass erst einer vorträgt und dann alle fragen dürfen, auch sagen, das habe ich nicht verstanden. Denn wer etwas nicht verstanden hat, ist nur etwas mutiger als die anderen, die es auch nicht verstanden haben, aber nicht wagen, es zu sagen. Wir müssen alle, weil nicht übersetzt wird, möglichst langsam und deutlich sprechen. E una cattività. Io non sarei mai in grado di parlare 800 in una sillaba. Però lei ne è a poco. Also möglichst langsam, möglichst deutlich. Zumal, da wir in diesem Jahr die Schwierigkeit haben, dass wir in diesem Raum mehr Teilnehmer als sonst haben. Und es wird sehr schwer sein, diese etwa 50 Personen miteinander bekannt zu machen, so dass am Ende, am Freitag, wir gegenseitig alle unsere Namen und nicht nur die Namen, sondern unsere Kenntnisse, das heißt die spezielle Eigenart, die jeder hierher mitgebracht hat, voneinander kennen. Es ist das letzte Seminar, das in diesem Haus stattfindet, denn künftig wird das Institut in die Stadt umziehen, wo es größere, wenn auch nicht so schöne Räume bekommt und wo nicht die Möglichkeit sein wird, über die zwei ausgemalten Säle zu sprechen, die ein adliger Vorbesitzer im 19. Jahrhundert mit mythologischen Szenen und historischen hat ausmalen lassen, die das Institut niemals interpretiert und ergo auch nicht veröffentlicht hat, obwohl vielleicht die Beschäftigung mit dem 19. Jahrhundert dazu einen Anlass geben könnte. Unser Thema ist sehr kompliziert. Es führt Historiker des Mittelalters und Historiker der Neuzeit des 19. und 20. Jahrhunderts zusammen, die normalerweise nicht viel miteinander zu tun haben. Die Zeit, in der man noch alles studierte oder in der sogar ein Professor noch vom Mittelalter bis zur Gegenwart seiner Vorlesungen und Übungen abhielt, sind vorbei. Und es ist vielleicht sogar nützlich, wenn an einem solchen gemeinsamen Thema die beiden sich wieder einmal treffen. Das heißt also nicht nur deutsch sprechende und italienisch sprechende Historiker, sondern Mittelalterhistoriker und Neuzeithistoriker sich bei gemeinsamen Thema begegnen. Allerdings, was ein gutes Drama ausmacht, Einheit des Ortes, der Zeit und der Handlung, das kann man von unserem Seminar nicht behaupten. Das Thema wäre so vielfältig, dass also das Herausgreifen einer Zeit, eines Ortes und einer Handlung oder eines Themas wirklich gelungen wäre. Es würde nie gelingen, weil nicht genug Leute so genau die gleiche Zeit, das gleiche Ort behandeln, dann wäre es langweilig. Wir müssen sehen, wie wir bei den verschiedenartigen Themen, die alle auf das Gleiche zielen, zu einem möglichst fruchtbaren Austausch kommen. Denn unser Thema ist in einer Hinsicht, glaube ich, ein Thema der Selbstkritik. Wenn wir über die Auffassungen, die Ansichten, die Stereotypen und Mythen vom Mittelalter im 19. Jahrhundert in Deutschland und Italien sprechen, dann ist auch gemeint, das drücke ich jetzt sehr anders aus als Kiela, aber er hat es auch gesagt, dann ist auch gemeint, das, was ich meinen Studenten mit einem etwas boshaften Satz zu sagen pflegte, wir sehen das Mittelalter mit den Augen des 19. Jahrhunderts. Wir sehen es nicht mit unseren eigenen Augen, sondern mit denen unserer Urgroßväter, weil die die großen Bücher geschrieben haben, aus denen wir das Mittelalter lernen. Und es ist außerordentlich schwer für einen heutigen Studenten, dieses 19. Jahrhundert, was in unseren Mittelalterbüchern drinsteht, zu unterscheiden vom richtigen Mittelalter, weil sie das 19. Jahrhundert nicht gut genug kennen. Wer über Investiturstreit arbeitet, arbeitet sehr oft, ohne es zu ahnen, über den Kulturkampf. Und so ähnlich gibt es viele andere mittelalterliche Themen auch. Je mehr wir uns mit der Anschauung des Mittelalters im 19. Jahrhundert beschäftigen, umso freier werden wir das Mittelalter mit unseren eigenen Augen sehen zu lernen. Zum ersten Mal in diesem Jahr, wo statt zweier Seminare nur eins stattfindet, sind außer den Vortragenden und den Stipendiaten auch Gäste geladen, deren Fachkunde man für die Diskussion gerne ausnützen möchte. Ich hoffe also, es kommt wirklich zu einer Aussprache über die vielen Themen. Jetzt noch zwei Dinge. Professor Tabacco hat einen so vorzüglichen, weit ausgreifenden Vortrag im vollen Wortlaut in diese Broschüre geliefert, dass Herr Skira und ich uns beide nicht mit einer großen, umfangreichen, sachlichen Einführung zu produzieren brauchen. Besser als Herr Tabacco können wir das ohnehin beide nicht. Im nächsten Jahr wird das so unvollständige Thema Mittelalter im 19. Jahrhundert in Italien und Deutschland durch eine erste Ergänzung vervollständigt, indem über das klassische Altertum im 19. Jahrhundert gesprochen wird. Und der Professor Modigliano aus London ist schon als Moderator italienischerseits gewonnen worden. Mit einem deutsch sprechenden Althistoriker wird auch behandelt. Wir hoffen, da einen ähnlichen zu finden, obwohl das fast nicht möglich ist, jemanden zu finden, der Modigliani ähnlich ist. Modigliani ähnlich ist. Programmänderungen haben Sie, hoffe ich, nicht mitbekommen. Mazzacane fällt aus am Mittwoch früh. Stattdessen tritt Herr Biondi mit seinem für Montag vorgesehenen Referat ein und Frau De Pascale spricht über die deutsche Romantik. Herr Fleckenstein wird statt heute Vormittag, heute Nachmittag seinen Vortrag halten. Herr Skira hat freundlicherweise oder vielleicht boshafterweise mir die Entscheidung überlassen, wie das mit der gegenseitigen Vorstellung vor sich gehen soll. er hat gemeint, es sei vielleicht nicht gut, das vor dem Vortrag von Herrn Tabacco zu machen, und ich kann ihm darin nur zustimmen. Ich greife deshalb seinen Vorschlag auf, dass wir jetzt eine kurze Pause machen, 15 Minuten. Das würde nach meiner Uhr heißen, dass diese Pause Punkt 10.30 Uhr zu Ende wäre. Dann würden wir Herrn Tabacco hören, eine Diskussion machen, in der schon die ersten Namen deutlich werden, und uns dann überlegen, wie wir rings um das Mittagessen und vor dem